Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Esco dalla metro e mi appare dinanzi la cattedrale di Milano nella sua maestosità. Ecco dove possiamo fare il concerto, dove da bambino mi ha portato mio papà, sulle terrazze del Duomo. Sono Ermanno, vivo a Milano con mia moglie Deborah e i miei figli Gabriele, Federico e Elisa. Lavoro in una grande azienda di telecomunicazioni, dedico il mio tempo a una cooperativa di assistenza anziani, amo la montagna, i cori alpini e i giochi di prestigio. Innanzitutto un buon 2015 a tutti quanti. Oggi è il primo di gennaio, sono le passate da poco le 16 e oggi è una puntata particolare. È una puntata particolare per diversi motivi. Primo, perché è il primo di gennaio e già comunque è qualcosa. E mi auguro siate svegli nonostante siano le 16 per dopo la nottata di ieri. Ma soprattutto è una puntata particolare perché è doppia, perché non c'è un'unica storia, non durerà solo mezz'ora ma durerà un'ora intera, quindi vi terremo compagnia fino alle 17 per giù. E poi è una puntata particolare perché, come ormai sapete se siete affezionati di questo programma, questa è di fatto la penultima puntata di Voi Siete Qui. Noi lasciamo i saluti e il commiato per la puntata di domani, che è una puntata, quella sì, particolare, perché è proprio l'ultima di questa stagione e l'ultima per questa stagione della vita, diciamo, qui a Radio 24, mia e di Tiziano. Visto che sono arrivati un po' di messaggi che chiedevano spiegazioni, le spiegazioni le abbiamo già più o meno date, spero, nel senso che questa è stata una scelta personale mia che ho preso insieme a Tiziano. La radio ha cercato di farci cambiare idea e l'ha fatto anche molto gentilmente, però abbiamo la sensazione sia io sia lui che arrivino, insomma, dei momenti in cui si debbano cambiare un po' di cose, banalmente, che cambiare, imparare cose nuove sia salutare, fare nuove esperienze, eccetera eccetera eccetera. La cosa che ovviamente mancherà di più saranno le storie, saranno le persone che le raccontano, sarà il rapporto che si creava, oltre ovviamente a tutta la redazione che è qui davanti a me in questo momento, Miriam Lucchetti, Paolino Corleoni, eccetera eccetera eccetera. Insomma, però vabbè, chiuso qua, basta, domani vi salutiamo per bene. Oggi invece continuiamo a raccontare le storie, vi dicevo, però così è, questa è la penultima puntata di Voi Siete Qui, della quarta stagione di Voi Siete Qui. Carissimi, mi scrive Ermanno, in allegato invio la storia dei concerti sulle terrazze del Duomo di Milano. Effettivamente qualche anno fa girò per Milano la voce che si faceva una cosa che non si era mai fatta prima, che erano dei concerti proprio sulle terrazze del Duomo. Io manco lo sapevo che c'erano delle terrazze, perché per me il Duomo era tutto punte, guglie e strapiombi, e invece no, evidentemente là in alto ci sono proprio dei piani in piano che sono a cielo aperto e di conseguenza, come vuole la definizione del dizionario, sono delle terrazze. E quando ho ricevuto la storia di Ermanno ho detto, ah, guarda qua chi è che l'ha inventato. Infatti lui mi scrive, è la genesi di un evento dall'idea originaria che si è poi sviluppata passando di mano in mano verso una serie di proposte musicali e culturali che ritengo possano ancora evolversi. Insomma, è chiaro che Ermanno ha voglia di andare avanti con questa esperienza, però se qualcuno per caso ne ha sentito parlare o se non ne avete mai sentito parlare e volete iniziare questo nuovo anno così, questa è la storia dei concerti sulle terrazze del Duomo di Milano. Per il Natale 2007, eravamo a metà dicembre, l'amico Pierpaolo mi fa un regalo, uno di quei regali di rappresentanza che le aziende e le organizzazioni in genere fanno per le festività. Mi dona un CD di un coro alpino, si chiama Le Ben Ver. Il ricavato della vendita va in beneficenza. È un coro particolare, un coro fatto da studenti dell'Università Cattolica di Milano. Lo ringrazio, gli faccio gli auguri ed esco dal suo ufficio con il CD in mano. E lì la mia creatività inizia a galoppare. Bello il CD. In copertina ci sono i giovani studenti universitari. Belli i canti, alcuni più di altri mi sono cari, come Dio del cielo, Signore delle cime. Io che amo la montagna, maestra di vita e tutto ciò che ad essa rimanda, mi domando come posso trasmettere tutto ciò ai miei figli e ai giovani studenti. I miei figli frequentavano la media inferiore all'epoca, la scuola salesiana di Milano, quella di via Copernico, vicino alla stazione centrale di Milano. L'idea che mi frullava in testa era di invitare il coro alpino del CD a cantare per i miei figli e i ragazzi loro compagni di scuola. Ma dove? In un rifugio di montagna? In un teatro? Troppo ovvio. Uscito dall'ufficio di Pierpaolo con questi pensieri, prendo il metro e scendo a Duomo. Per lavoro dovevo recarmi in zona. Esco in superficie e mi appare dinanzi la cattedrale di Milano nella sua maestosità. Ecco, ecco dove potevamo fare il concerto, dove da bambino mi aveva portato mio papà, sulle terrazze del Duomo. Non ho una formazione artistica, mi occupo di logistica in un'azienda di telecomunicazioni e poi occupo un po' del mio tempo in una cooperativa di assistenza agli anziani. Fermo l'idea nella mia mente. Chiamo per lavoro un altro amico, Maurizio. Gli espongo l'idea, quella che ho appena avuto. Di Berlì mi dice che è ottima, anche se poi, a distanza di mesi, dopo il primo concerto, mi dice che ha pensato che era da pazzi. Arriva Natale, vacanze scolastiche, e alla ripresa, dopo l'Epifania, accompagno mio figlio a scuola. Cerco il preside, Don Stefano. Nel cortile della scuola stava per fischiare l'inizio delle lezioni. Sì, perché ogni mattina in quel cortile, con Don Bosco che campeggia raffigurato al centro, visibile addirittura da Google Maps, le lezioni iniziano così. Insomma, io gli espongo l'idea e lui dice: procediamo. Verifico prima di tutto se ci sono stati altri in passato che hanno fatto un concerto sulle terrazze del Duomo con l'aiuto di Maurizio e scopro solo che gli scout si sono ritrovati per pregare insieme. Con questa informazione chiamo la veneranda fabbrica del Duomo. Contatto il direttore, il quale acconsente e assieme a Don Stefano, Massimo e Giuseppe, due genitori della scuola, ci presentiamo alla sede della veneranda fabbrica del Duomo. Ci accolgono con molta cortesia il direttore, un ingegnere con dei baffi all'Ardezchi, che conosce il Duomo palmo a palmo, e l'economo. Raccontiamo loro ciò che vogliamo fare: andare sulle terrazze del Duomo e ascoltare un coro alpino e affidarci con una preghiera alla Madonnina. Il tutto in un paio d'ore. Il direttore, dopo aver ascoltato, ci dice che è fattibile e ci dà suggerimenti su orari e luogo delle terrazze dove svolgere l'evento, sulla parte sopra il Tiburio alle spalle della Madonnina, luogo solo a noi riservato per l'occasione. Ci segnala inoltre che sarebbe la prima volta che si tiene un concerto sulle terrazze del Duomo. Non ci pare vero, i primi nella storia pluricentenaria del Duomo di Milano. Ne sarebbe felice anche Don Bosco. Tutto è accaduto come se le persone sapessero già che doveva esserci quell'evento. Sembrava che ci aspettassero. Insomma, parte la macchina organizzativa. Confermo a Giovanni, responsabile del coro, che siamo sul Duomo. Lui è contento. Poi, sopralluogo sulle terrazze e diversi incontri preparativi nell'ufficio del preside, con pane, salame e del buon vino a fare da corollario. Tutti sono coinvolti, soprattutto i genitori. C'è un servizio accoglienza con tanto di maglietta, un biglietto d'invito d'ingresso personalizzato con gadget, ricce trasmittenti per collegare le terrazze alla piazza e rendere agevole la salita di circa 300 persone, tra ragazzi e adulti, con scale o ascensore. Il giorno del concerto mi sentivo di toccare il cielo con un dito, perché un evento come quello difficilmente capita ogni giorno. È stata una bella esperienza, perché è come se tutto quello che è accaduto era previsto, come in un disegno quasi divino. Il tempo quel giorno, sabato 5 aprile 2008, tra le 9 e mezzogiorno, è clemente. Sul Duomo splende un bel sole. Iniziamo l'incontro con l'affidamento alla Madonnina, accompagnati da canti proposti da alcuni genitori, capitanati da Maurizio, ex allievo salesiano. Poi il pezzo forte tocca ai ragazzi del coro alpino, le Ben Ber. Sono emozionatissimi. Sono accompagnati anche da amici e parenti. Esibirsi in un luogo come quello non è cosa di tutti i giorni. Insomma, l'evento riesce alla perfezione. Siamo tutti soddisfatti e già pensiamo al secondo concerto di primavera sulle terrazze del Duomo. Passa l'estate, verso ottobre, per lavoro incontro una persona che già conoscevo di vista e che si occupa di organizzare eventi musicali. Gli racconto dell'esperienza del primo concerto di primavera sulle terrazze. Mi ascolta incuriosita e molto interessata. Rivedo poi quella stessa persona nei mesi successivi, sempre per lavoro. E andiamo poi a concludere. La invito al secondo concerto di primavera, fissato per il 18 aprile del 2009. Tutto organizzato come l'anno precedente, ma con la sorpresa della presenza al concerto del rettore maggiore salesiano Don Pascual Chavez Villanueva. L'evento, come l'anno precedente, è riuscito perfettamente. Poco prima del secondo concerto di primavera, durante un incontro organizzativo con la veneranda fabbrica del Duomo, siamo informati che tra giugno e luglio del 2009 verranno proposti 5 concerti sulle terrazze del Duomo, affidati alla stessa organizzazione per cui lavorava la persona che avevo incontrato mesi prima. Così, dall'estate del 2009 ad oggi, passando dal concerto per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ogni anno si sono succeduti diversi eventi musicali sulle terrazze del Duomo. Ed è, immagino, sul Duomo, proprio sulla terrazza del Duomo, Ermanno, nella foto che ci ha mandato. Direi di sì, perché si intravedono le guglie, lui è con suo figlio, hanno addosso entrambi una maglietta con su una foto, credo, di Don Bosco, insomma una maglietta che rappresenta, immagino, la scuola salesiana in cui studia suo figlio. Sono tutti e due molto contenti ed Ermanno assomiglia incredibilmente, Ermanno, non puoi immaginarti quanto, ad un mio carissimo amico di infanzia, Cristian Perrone. Pronto Ermanno, buongiorno. Ciao Matteo. Eccoci qua, innanzitutto confermami che siete sulle terrazze del Duomo nella foto che mi hai mandato. Sì, confermo, siamo sulle terrazze del Duomo ed è il primo concerto fatto nell'aprile del 2008. Da allora quanti ne avete fatti? Ma guarda, ne abbiamo fatti due perché dovevamo fare il terzo nel 2010, ma ci è andata a buca perché dovevamo invitare non ha dato conferma. Il coro che doveva venire a cantare, dici? No, avevamo invitato Davide Van der Sross a cantare per noi soprattutto 40 Pass, che è una canzone molto bella, che parla anche della Madonnina, tra l'altro, sì, che è sì. Una revisione, diciamo, di quello che è la parabola del figlio del prodigo. Sì. Però non è venuto. Non è venuto e quindi ci siamo fermati al secondo concerto. Ah, che è un peccato, perché effettivamente ammetto, Ermanno, che io, abitando a Milano ovviamente, avevo intercettato negli anni passati di questo evento, insomma, infatti quando ho letto la tua storia ho detto, ah, ecco da dove arriva, perché comunque era una cosa di cui si era parlato, no? Sì. Noi ci dicevano alla fabbrica del Duomo che siamo stati i primi nella storia pluricentenaria del Duomo a creare un evento quale un coro di montagna in questo caso, ma un evento musicale in sostanza, e poi negli anni successivi si sono avuti altri eventi. Altri, come... certo, come racconti, nell'estate del 2009 in particolar modo. Esatto. Scusami, mi descrivi esattamente, innanzitutto quante terrazze ha il Duomo? Ne ha più di una, mi sembra di capire. Sì, ci sono due livelli di terrazze, quello superiore e quello inferiore, da cui si accede appunto a quello superiore, ed è un luogo molto bello perché si può godere soprattutto nelle giornate limpide anche di una visione stupenda della catena delle Prealpi. Infatti certo. In uno dei due concerti siamo riusciti a vedere anche il Resecone di Lecco, quindi insomma una vista che da Milano non si gode tanto facilmente. Esatto. Quanto saranno grandi queste terrazze, più o meno, in metri quadri? Beh, guarda, è una domanda che io farei al direttore dell'epoca, che conosceva palmo a palmo quello che è il Duomo. Comunque, sulle terrazze del Duomo, per dare un'idea, sulla parte che è davanti alla Madonnina, sì, ci stanno più o meno un migliaio di persone. Ma sono enormi! Abbastanza ampio, sì. Poi c'è la parte dietro che noi abbiamo utilizzato nei due concerti, che non è possibile per il pubblico andarci, però lì ci stanno qualche centinaio di persone. Invece, scusami, mi sono impazzito per i nomi e le definizioni. A parte il rettore maggior salesiano Don Pascual Chavez Villanueva, è un nome che sembra uscito da Don Quixote della Mancia. È messicano. Invece, adesso tra l'altro è cambiato a marzo di quest'anno, e il nuovo rettore maggiore è Don Angel Fernandez Artime. Vabbè, sono tutti a metà tra un romanzo di Marquez e Don Quixote della Mancia. Ma soprattutto mi eccita tantissimo la veneranda fabbrica del Duomo. Si chiama proprio, ma cos'è, un SRL? Non credo, non ti so dire quale forma societaria possa avere. Comunque è la veneranda fabbrica del Duomo. Difatti, di cosa si occupano? Si usa dire che a Milano, quando uno è lungo nel fare le cose, ma sei peggio come la il Duomo di Milano. Del Duomo. Cioè, certo, perché... Anche perché la fabbrica del Duomo ha il compito di mantenere in vita il Duomo, perché il marmo di Candoglia, mi hanno raccontato, che ha una vita di circa 100-150 anni massimo, quindi deve essere continuamente sostituito. Difatti, se si vede il Duomo dall'esterno o anche sulle terrazze, si può notare la differenza tra il marmo bianco nuovo proprio di Candoglia e quello più vecchio, antico, che ha risentito dell'inquinamento. Scusami, marmo di Candoglia, Candoglia è la località da cui arriva o è una tipologia di marmo particolare? È una tipologia di marmo che comunque viene dalle parti del Lago Maggiore. Quindi hanno, che era quella originaria che copriva il Duomo, oppure negli anni è stata scelta? Hanno scelto quel tipo di marmo perché le cave erano vicino a Milano e venivano trasportate più facilmente, a mezzo canali navigabili fino a Milano. Certo. Senti, invece raccontami, è tuo figlio, quale il primo figlio, Gabriele. Gabriele, che adesso ha invece... Che nel frattempo ha finito, adesso sta lavorando. Sta già lavorando, ammazza, sì, sembra un bambino. È vero che erano 7 anni fa, però... A 20 anni, ragazzo, bambino. E che lavoro fa il bambino di 20 anni? Ma adesso lui lavora in una grande azienda, non faccio nomi, che costruisce aeroplani. Ah, ok, ce n'è più o meno uno in Italia di grande azienda che costruisce aeroplani, quella lì. Esatto, okay. Diciamo sta nella provincia con le ali. Ti ho detto tutto. Ok, va bene. Varese. E l'altro tuo figlio? L'altro studia ancora dai salesiani in meccanica, e mentre l'ultima, la più piccola, fa la scuola media. Ah, ne hai 3 di figli, giustamente. Esatto. E invece tu mi ricordi che cosa fai esattamente, Armando? Beh, io lavoro in una grande azienda di telecomunicazioni, poi dedico anche parte del mio tempo a una realtà cooperativa che si occupa di assistenza agli anziani. Beh, e lo fai in maniera attiva, o cioè nel senso che proprio fai volontariato, oppure... Sì, lo faccio a modo di volontariato, in maniera attiva, gestendo con altri amici questa... E come si chiama? Dicelo come si chiama, che tanto... E si chiama Oltre la Memoria. Ok. E ci occupiamo di assistenza domiciliare agli anziani. Senti, e ce n'è molto bisogno. Ermanno, visto che poi ti devo salutare, dal momento che siamo al 1° di gennaio, che cosa immagini per questo 2015? Hai dei grandi progetti davanti o speri semplicemente di vivere un altro anno sereno? Ma io sicuramente la serenità è già tanto averla in questo periodo. Comunque, se dovessi lanciare un messaggio a tutti quelli che sono in ascolto, è di avere uno sguardo positivo su quello che verrà. Uno sguardo positivo che dipende anche da quello che noi abbiamo dentro. Ermanno, questo, guarda, è un messaggio ecumenico che abbraccio completamente, e ti ringrazio per la storia, la chiacchierata, e ti faccio ovviamente in bocca al lupo e auguri. Diamoci l'appuntamento allora al terzo concerto sulle terrazze del Duomo. Certo, facci sapere se riuscite a farlo. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Buon anno. Ciao Ermanno, auguri, grazie. Alla fine, dalla storia di Armando, ho capito che, primo, sul Duomo ci sono delle terrazze, e anche abbastanza grandi. Secondo, esiste una cosa che si chiama la veneranda fabbrica del Duomo. Terzo, È vero che gli scout vanno dove le persone normali di solito non possono andare. Quarto, mi è venuta una gran voglia di far parte di un coro alpino. E soprattutto quinto, quando credi in un progetto, se vai fino in fondo, è molto probabile che quel progetto si realizzi. E non solo esiste la veneranda fabbrica del Duomo, attenzione, ma ha una storia incredibile. La veneranda fabbrica del Duomo di Milano è la fabbriceria, che già, allora qui aspetta, uno dice avranno sbagliato a scrivere, e invece no, vai a fare una ricerca fabbriceria. Con il termine fabbriceria viene inteso un ente che provvede alla conservazione e al mantenimento dei beni dei luoghi sacri, come ad esempio le chiese. Il termine fabbriceria deriva dal latino fabbrica, bla bla bla. Quindi dicevamo, la veneranda fabbrica del Duomo è la fabbriceria della Cattedrale di Milano. Dal 1387, anno della sua fondazione, si è occupata della sua costruzione, del reperimento dei fondi e dell'amministrazione. Ancora oggi si adopera nella conservazione e nel restauro della cattedrale, nell'attività di custodia, di servizio, bla bla bla. Per cui è ovvio che se volete fare dei concerti sulla terrazza del Duomo, andate alla fabbriceria del Duomo, cioè alla veneranda fabbrica del Duomo. Quindi entrate, bussate, buongiorno, ci saranno dei trappi incredibili del 1300. E tra l'altro c'è tutta la storia, ovviamente, della costruzione della cattedrale del Duomo. E c'è anche quello di cui parlava Ermanno. Eccole qua, le cave di Candoglia. Oggi, come in passato, la veneranda fabbrica del Duomo, che ogni volta che lo dico sembra un titolo di un libro di Umberto Eco, ti ringrazio, si occupa dell'escavazione del marmo, un tempo il principale materiale per la costruzione del Duomo, oggi strumento prezioso per il restauro. Però non capisco se le cave di Candoglia servono solo ed esclusivamente al Duomo. Cioè, se io volessi farmi, che so io, un pezzo del mio bagno in marmo di... non posso, perché solo di Carrara giustamente sarà stato deciso che è un pezzo sacro. In seguito alla disposizione di Gian Galeazzo Visconti per la costruzione della cattedrale, si sostituì il cotto, materiale usato per l'edilizia a Milano, con il marmo. A questo scopo, il 24 ottobre del 1387 concesse il diritto di escavazione alla fabbrica del Duomo e il diritto al trasporto gratuito del marmo fino a Milano. Vabbè, insomma, se avete voglia di saperne di più, andate a cercarvi la fabbriceria del Duomo, cioè la veneranda fabbrica del Duomo. Voi siete qui. Sono Marcello, vivo a Sassuolo, in provincia di Modena, e ho avuto la fortuna di fare lavori meravigliosi. Giornalista, allenatore di basket, organizzatore di eventi. Adesso sono educatore di disabili psichici. Tra le mie passioni, l'anguria, fare dispetti al mio gatto e viaggiare. Insomma, averne di presentazioni come questa, devo dire. L'anguria e i dispetti al gatto forse sono della stagione alcune dei caratteri di una persona più divertenti che abbia sentito. Ribongiorno a tutti, questa è la seconda parte di Voi siete qui in questa puntata speciale del primo di gennaio. Magari qualcuno di voi si aspettava This is the End dei Doors, che apre sempre il programma di Oscar Giannino, e invece Oscar è giustamente in vacanza essendo il primo di gennaio, e noi vi facciamo una puntata speciale, la penultima di fatto, come vi dicevo prima, di Voi siete qui, ma comunque speciale. Due storie invece che una, quella di Ermanno che avete sentito in apertura e quella di Marcello che avete ascoltato adesso in questa presentazione. La storia di Marcello è una storia che forse potrebbe essere utilizzata dai programmi che parlano di viaggio, e nella fattispecie per quei programmi che parlano di viaggio, nelle puntate dedicate al couchsurfing, che immagino conoscerete come quel modo di viaggiare attraverso i divani delle persone che ti ospitano. In realtà parla d'altro, in realtà parla di mentalità, parla di apertura, parla di persone che si incontrano e di cose inaspettate che succedono sempre quando si viaggia in un certo modo, che è quello di Marcello, ma è anche quello in generale di viaggiare senza sapere dove vai e quello che ti succede. Non so se conoscete il nord-ovest, il nord-west degli Stati Uniti. Se non lo conoscete, questa è una bella puntata per provare a capire che tipo di gente c'è, visto che sono dei luoghi enormi, gli spazi negli Stati Uniti, uno pensa sempre solo a due o tre posti, di solito New York, Los Angeles. Qua invece si parla di quella zona in alto a sinistra, quella che tra le altre comprende proprio la città di Seattle. Muoversi tramite l'ospitalità di chi ti offre un divano o un materasso genera anche cambi di identità e sorprese che nemmeno a raccontarle. Mi sono spostato da Seattle verso l'Oregon, appena sotto lo stato di Washington, sempre in pieno e meraviglioso Northwest degli Stati Uniti. Tra gli originari dell'Oregon e a Mekari ci sono Raymond Carver, River Phoenix, Matt Groeningen, oltre che i Trail Blazer e i loro tifosi assatanati. La costa è spettacolare, scogliere altissime alternate a spiagge dove atterrerebbe un aereo. Il Pacifico è gigantesco e freddo. Mi aspetta Neil, coach di basket e atletica presso la high school di una cittadina poco sotto Astoria, là dove scorazzavano i Goonies. Neil fatica a guardarti fisso negli occhi, ma senza fare una piega ti fa presente che puoi fermarti quanto vuoi. Sta in una bella casa grigia e bianca come i suoi capelli, con giardino e veranda a circa 100 metri dalla spiaggia. Neil in quella casa non ci ha vissuto sempre da solo, anzi, lo raccontano tutte le foto alle pareti. Lo racconta soprattutto la sua voce, che si rompe quando parla del suo passato. Una folata dolorosa all'indietro, e poi via. Era l'estate del 2012 e mi trovavo sulla costa nord-ovest degli Stati Uniti a fare un'esperienza di couchsurfing, ovvero vacanza ospitato sui divani o sui letti di persone benevole. Ero lì in particolare perché, essendo il 2012, erano appena passati 18 anni, quindi praticamente una maggiore età dalla morte di Kurt Cobain, erano 70 anni dalla nascita di Jimi Hendrix, sono appassionato di musica rock, quindi ero andato a vedere un po' quella zona che per me significava tanto. Una sera poi arrivano altri ospiti, una coppia in bicicletta dalla Virginia, sono in viaggio da 2 mesi. Neil è disarmante nel farli sentire a proprio agio, senza la minima invadenza. È buio, ma si va in spiaggia. Fuoco, vicino, vino dell'Oregon, parmigiano che la frontiera mi hanno fatto passare, e robe americane strane e dolci, risate, tuffi gelati. Neil mi dice che allenare i ragazzi non significa che gli si debba urlare dietro per forza. Mi dice che allenare è aiutarli a scoprire se c'è qualcosa di bello dentro di loro. Me lo dice e poi si gira. La mattina dopo mi alzo tardi. I due della Virginia se ne sono già andati. E se n'è andato anche Neil. Pacifico. Mi ha lasciato un biglietto con scritto che parto per una inaspettata avventura in California. Mi raccomando, quando te ne vai, assicurati di avere chiuso bene la porta. È stato un piacere. Dall'Oregon alla California del Sud è tipo andare da Roma alla Finlandia. Neil l'ho conosciuto perché è stata una di quelle persone che ha appunto risposto alla mia domanda di ospitalità. È stato gentilissimo e non solo mi ha ospitato, ma mi ha fatto sentire praticamente un principe. Per 3 giorni mi sono sentito un'altra persona, praticamente un abitante della sua cittadina. Non ho mai saputo esattamente cosa sia andata a fare in California e, avendone conosciuto la sua indole appunto pacifica, la cosa non mi stupisce. Il mio bus per Portland, prossima tappa, parte tra 2 giorni. Sono solo in una casa sull'oceano. Ricco possidente in vacanza tra gruppi di americani benestanti con la felpa legata al collo e le scarpe stile marinaro. Vista la zona, la colonna sonora dei Pearl Jam è obbligata, visto il panorama Oceans. Chi mi deve ospitare a Portland non ha ancora confermato. Per quello che ne so, tra 48 ore potrei trovarmi a spasso in una metropoli, vagando tra il profumo delle migliaia di rose presenti e l'odore delle ciambelle che hanno ispirato Groening per Homer Simpson. L'hotel dove Gus Van Sant ha girato Drugstore Cowboy è stato abbattuto, purtroppo. Peccato, poteva essere una buona idea. Non so ancora dove dormire, ci penserò. Intanto sto qui, seguendo le raccomandazioni scritte nella parte di biglietto che tengo privata. È stato un piacere anche per me, Neil. Sembra in uno studio di registrazione, o quantomeno qualcosa di simile, Marcello, perché ha in mano un microfono, ha un porta badge con un badge attaccato, no, porta pass, perdonatemi, attaccato al collo, quindi sembra una di quelle manifestazioni in cui è necessario farsi riconoscere, indossa una giacca e sotto, sulla giacca semi aperta, si intravede una t-shirt con sopra scritto Seattle Person, Seattle qualcosa, lo chiedo direttamente a lui. Pronto Marcello, ciao. Pronto, ciao Matteo. Ciao. Innanzitutto buon anno, visto che è il primo di gennaio, auguri per un buon 2015. Altrettanto, grazie mille. Che cosa c'è scritto sotto sta maglietta, su questa maglietta nella foto? C'è scritto Seattle Supersonic. Ah, Supersonic, scusami, leggevo solo Person, invece sono Supersonic, che cos'è, un gruppo? No, in realtà era, purtroppo era, perché non esiste più, la squadra NBA della città di Seattle. Ah, ed è fallita. Una squadra di basket. È fallita. Sai che negli Stati Uniti funziona che addirittura le squadre possono cambiare città, quindi questa certo. da Seattle è andata verso il sud, okay. Hanno migrato. Senti Marcello, si percepisce un po' appunto da quello che stai raccontando, ma anche dalla storia che ci hai mandato, che sei un grande fan degli Stati Uniti, cioè li conosci molto bene, ti piacciono in modo particolare o sbaglio? Alcune zone mi hanno affascinato in maniera particolare, una è proprio quella dove è situata Seattle, ovvero il nord-ovest, là in fondo, quasi vicino a Vancouver, sull'Oceano Pacifico. Che cosa Seattle di così particolare? È una città dove praticamente c'è tutto, ma dove il ritmo è ancora vivibile. È ovest rispetto a est degli Stati Uniti. Ah, giusto, insomma, che per chi diciamo non conosce bene gli Stati Uniti, l'est è quello un pochettino più frenetico, no? È la città di New, è la parte di New York, di Boston, mentre l'ovest è quello ovviamente della California, di Los Angeles, di San Francisco, dove si dice che sostanzialmente la vita sia diversa perché è ancora un po' più più morbida, diciamo così. Correggimi se sbaglio, Marcello. No, anzi, confermo e immaginate che Seattle sulla costa ovest è la città più a nord, praticamente dopo Seattle comincia il Canada, nell'angolo in alto. Seattle è una città in cui, sbaglio, piove spesso? Sì, un sacco, uno dei vari soprannomi è The Rainy City, quindi piove spesso, piove praticamente ogni giorno. Perché io ho visto tutta una serie televisiva molto famosa che è ambientata a Seattle, che si chiama The Killing, non so se la conosci. No, non la conosco. Ed è sostanzialmente piove sempre, per quattro serie piove sempre, in tutte le puntate. E Seattle, poi chiudiamo su Seattle, è la città che ha quella specie di UFO, quella torre ad UFO che è riconoscibile nello skyline, giusto? Sì, esatto. Quella che sale stretta stretta e poi si allarga sopra in un UFO, una specie di roba piatta e rotonda. Mi ricordi che cosa fai nella vita tu, Marcello? Io sono educatore di disabili psichici. E quanti anni hai? 39. Ah, sei del 75. 75. 75, sì. Perfetto, siamo coetanei. Nel 2012 tu hai preso e te ne sei andato a fare quanto tempo negli Stati Uniti? Un mese? Un mese, esatto. Facendo couchsurfing, cioè che chiedendo ospitalità, come dicevi, sui divani e o dove capita, perché non sono solo i divani, no? No, per fortuna capita che siano letti più che divani, anche perché sono alto 2,06 m, quindi molti divani non avrebbero fatto per me. Ok, quando dici che non ti avevano ancora risposto, non ti avevano ancora confermato chi ti ospitava, come funziona? C'è un sito giusto in cui iscriversi e fare le richieste per l'ospitalità? Esatto, c'è un sito dove ci si presenta e si presentano anche le proprie necessità di viaggio, dove, quando si vorrebbe ottenere ospitalità. A volte la risposta arriva in fretta, a volte, come quel giorno, no, è arrivata all'ultimo. Esatto, ma com'è finita poi a Portland? È finita che sono stato salvato da una ragazza, quindi è stato anche interessante, che è la prima cosa che mi ha detto ancora prima di presentarsi è: bene, io stasera ti posso ospitare, però tu adesso vieni con il mio equipaggio di canoa, perché ci manca uno, e fai allenamento insieme a noi. Io ero ancora vestito da viaggio, sceso dal treno, appoggiato lì le borse e ho girato la città come primo approccio con una squadra di semiprofessionisti facendo una fatica mostruosa e dopo sono andato a fare la doccia a casa di questa ragazza. Scusami, ma ad esempio in incontri come questi succede, no, che, cioè, non dico esserti innamorato pronti via, però immagino che quando uno fa un viaggio come questo la propria apertura sia molto più, perdonami la ripetizione, più aperta di quando uno è a casa propria, no? Cioè, appunto, tu arrivi e devi essere pronto a fare un giro in canoa con dei tizi che si devono allenare. Insomma, hai mai avuto un incontro particolare per cui dici: ah, magari quasi quasi mi ci sarei fermato? Sì, mi è venuta la tentazione, forse non era il momento adatto, ma la tentazione mi è venuta, sì. E dov'eri? A Seattle, anche per la magia del posto. Ah, ok. Alla fine sono tornato in Italia. alla fine siamo qui che ne parliamo, quindi insomma esatto. Non è proprio andato. Senti, invece mi racconti, ho capito che c'è un pezzo del biglietto che ti ha lasciato Neil che giustamente ti vuoi tenere per te, ma quando dici che lui non ci ha abitato sempre da solo, immagino che avesse una moglie prima. Sì, esattamente. Che era mancata? Sì, una moglie mancata, fotografie, biglietti, oggetti, insomma... presente in altre maniere. L'hai più sentito lui? L'ho sentito via mail con molto piacere, ma sempre risposto da una parte del mondo diversa, quindi continua a essere un viaggiatore, come la sensazione che quello che gli manca lo stia cercando in giro. Ok, Marcello, senti, io ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata. Immagino tu sia in vacanza in questi giorni, no? È ancora festa il primo di gennaio, anche dalle tue parti, sì, nel tuo lavoro. Sì, okay. sì, ancora per qualche giorno, sì. Senti, in bocca al lupo per tutto e soprattutto inizia bene il 2015 e proseguilo ancora meglio. Crepi, anche a voi, grazie mille. A presto, grazie mille. Ciao, a presto. Ciao. Siete qui. Insomma, couchsurfing direi la parola chiave di oggi, grazie alla storia di Marcello. Però è soprattutto un'altra, e lo capirete anche da quello che sto per raccontarvi. Nel senso che questa storia è stata scelta per questa puntata per un motivo molto preciso. Perché ha a che fare con quel pezzo di ignoto che spesso abbiamo paura di affrontare e che in realtà delle volte è molto salutare fare. E come dice Marcello, non sapere dove dormirai il giorno dopo, non sapere se a Portland, che è un luogo probabilmente molto grande e soprattutto molto sconosciuto perché non ci sei mai stato, sapere che ecco in una città così non sai dove dormirai ti mette in una condizione fisica e soprattutto mentale diversa da quella quotidiana. Non so se sia per forza un bene oppure no, però quantomeno ti fa vivere un'esperienza diversa, ti fa essere un'esperienza diversa. E la puntata che si sta per concludere con questo ultimo quarto d'ora, questi ultimi 10 minuti di oggi, parla soprattutto di quello, parla di un anno che comincia, parla di cose che non sai cosa succederanno, e quindi questa puntata, diciamo così, la dedico chiaramente a Marcello che ci ha dato il destro per poterla raccontare e a tutti voi che ci avete ascoltato in tutti questi anni. Prima vi racconto perché e poi vi saluto. Questi sono i giorni che ho sempre preferito delle vacanze. Il Natale è passato, le abbuffate più o meno si stanno smaltendo e siamo pronti per festeggiare l'anno nuovo. Abbiamo già superato i pensieri di che cosa regalare a sorelle, nipoti e abbiamo salutato tutti quelli che dovevamo salutare. Però ci sono ancora un po' di giorni di festa. È questo il bello. Sono i giorni in cui ci vediamo con gli amici solo per passare del tempo assieme, per andare a sciare. Sono i giorni in cui si elaborano i propositi per il nuovo anno. Io questo anno che viene avrò 40 anni e questa è una ragione in più per fermarmi e riflettere bene sui miei propositi per questo 2015. Ho scelto di raccontare la storia di Marcello a questo punto dell'anno proprio per questo motivo, perché lui viaggia non sapendo chi incontra, non sapendo dove dormirà il giorno dopo e a 40 anni l'abitudine è in agguato e la tendenza è quella di cercare di avere qualche certezza in più. Si ascolta meno l'istinto e le scelte che si fanno sono sempre più ragionate, sono sempre più prevedibili. Poi questa nostra epoca è particolarmente complicata e ci invoglia a ridimensionare le nostre aspettative. Basta perdersi un passaggio per smettere di sognare e ridurre i propri desideri. Ecco, allora, per il nuovo anno, mi propongo di non rincorrere troppo le cose sicure. Mi propongo di avere notti emozionanti, perché ci ho sognato in quelle notti lì. Di avere giornate piene di cose da fare, di persone da conoscere, di fare delle scelte seguendo i miei desideri più che il buon senso. Mi propongo di fidarmi dell'improvvisazione, di non pretendere di avere il controllo su tutto, di provare quella sensazione di vertigine eccitante tutte le volte che incomincio qualcosa, che sia una partita a calcetto o un incontro di lavoro. Di pensare almeno una volta, stavolta ho preteso troppo da me stesso. Mi propongo di mettere in discussione quello che so fare e che penso di sapere fare. Mi auguro che le persone a cui voglio bene vengano a casa mia e ci restino a loro agio, anche se io me ne parto, come fa Neil. A gennaio del 2014 non avrei mai immaginato che 12 mesi dopo avrei partecipato alla maratona di New York e che l'avrei anche finita. Mi propongo di farmi un'altra sorpresa come questa, qualcosa di altrettanto difficile, senza la certezza di arrivare fino in fondo, ma che comunque vale la pena provare. Nel 2015, in questo anno, compirò 40 anni. Per quest'anno mi propongo di lasciare indietro delle piccole certezze, per buttarmi in qualche cosa che non so se sono capace di fare. Devo sforzarmi per farlo, perché lasciare la strada che si conosce per imboccare quella che non si conosce è sempre difficile, ma sono sicuro che sia la decisione giusta da prendere. E alla fine, dalla storia di Marcello, ho capito che primo, Seattle mi ha sempre messo molta curiosità. Secondo, viaggiare da solo è il sistema più efficace per conoscere altra gente. Terzo, anche io avrei voluto avere un professore come Neil. E quarto, non sapere dove dormire il giorno dopo non è per forza un male. Ma soprattutto, quinto, a stare sempre in porto non si impara mai a navigare. Penultima puntata, dicevamo oggi, la penultima puntata della quarta stagione di Voi Siete Qui. E diciamo che io e Tiziano l'abbiamo cominciato proprio in questo modo qua il 2015, anche se è da un po' che stiamo cercando di metabolizzare questa cosa, abbiamo scelto, insomma, di fronte ad una proposta, perché poi di lavoro stiamo parlando, giusto, e di nient'altro. E quindi nel momento in cui abbiamo deciso di chiudere questa esperienza, che abbiamo cominciato di fatto 5 anni fa, perché era il 10 di gennaio, no, il 18, a dire la verità era il 18, ragazzi, però comunque era il gennaio del 2010 quando cominciamo a vendere oggetti e cominciai a parlare a questi microfoni. Era in particolar modo una bottiglia di vetro l'oggetto con cui mi presentavo a questa radio, a questo pubblico, e con cui iniziavo a raccontare storie qui a Radio 24. Insomma, sono 5 anni, e 5 anni sono un pezzo della vita, no? 5 anni sono la scuola elementare, sono l'università, adesso non più l'università, però insomma è un pezzo piuttosto importante della propria vita. Quindi quando decidi di cambiare ci pensi su un po', e poi ti butti, più o meno. C'è qualcuno che dice che in realtà le decisioni importanti si prendano nel giro di 10 secondi e poi tutto il resto è del tempo che impieghi per metabolizzarla, quella roba lì. Insomma, noi in questi mesi ci abbiamo pensato, ci siamo confrontati chiaramente con la radio, come vi dicevo, e alla fine abbiamo deciso così, abbiamo deciso io e lui. Non sappiamo esattamente cosa succede, o meglio, lo sappiamo che cosa succederà in questo 2015, sappiamo come comincia, ma non sappiamo mai come finisce. E in questa avventura spero che tutte le cose vadano bene, vadano per il verso giusto, ma soprattutto spero di uscirne avendo imparato qualche cosa di più. I saluti finali, però, come vi dicevo, li facciamo domani, che è ufficialmente l'ultima puntata di Voi Siete Qui, anche se nella settimana a venire andranno in onda una sorta di piccolo meglio di, ci saranno tutta una settimana dedicata alle migliori 5 storie che abbiamo mandato in onda in questa stagione, e addirittura anche un miglior diario dei diari di Voi Siete Qui la prossima settimana. A domani i saluti. Per intanto ringrazio e saluto Tiziano Bonini, ringrazio Paolino Corleoni e Miriam Lucchetti, ringrazio ovviamente Mauro Pescio e i due protagonisti delle storie di oggi, Marcello ed Ermanno. Le storie di oggi erano le loro, e anche loro sono 2 punti rossi su una mappa.